Carissimi e imperterriti amici Radio Pazzoidi, benvenuti ad un nuovo episodio di Back to the Future. Elettronica no cost in questo settimo episodio del mio podcast dedicato all'elettronica trasversale, marchiata Creative Commons. Qui siamo su Radio Pazza o yastaradio.com in collaborazione. Vi ricordo inoltre che proprio Back to the Future è in concorso agli European Podcast Awards assieme a Music Escapes della nostra Prisma. Quindi se avete tempo passate a cliccare su radiopazza.blogspot.com per votare il vostro podcast preferito, oppure entrambe. In questo appuntamento con voi ho scelto di proporre dei pezzi che avessero una voce, delle parole. E per cominciare vi faccio ascoltare le parole elettroniche di Vertigo con la sua Sono triste. Sono triste, oh yeah. Sono triste, Faccio le cose tristi, anche quando son felice sono triste. Cucino che mi piace cucinare, ma poi non mangio, che sono triste, oppure mangio a forza visto che ci ho messo tanto per cucinare. Sono triste, oh baby, sono triste, oh yes. Ho una compagna che mi adora, ma sono triste ugualmente. Faccio la spesa, compro una marea di roba, ma sono triste. Sono triste. Vado in vacanza 3 volte a settimana, ma sono triste. Ho tanti amici, ma sono triste. Non parlo con la gente, perciò sono triste. Non curo le mie passioni, perché sono triste. Sono triste. Sono 2 giorni che sto bene, non va bene, mi conviene che divento triste, altrimenti poi mi sento triste, e una volta che son triste, divento monotono e continuo sempre a ripetere. Sono triste. Non ho nessun motivo per essere triste, ma sono lo stesso triste. Che mi hanno insegnato che fa figo l'essere triste, perciò sono triste, perché chi è triste non reagisce. Però che 2 palle essere triste e la cosa mi rattrista, visto e considerato che mi considero e son considerato un tipo triste. Alla mia compagna le passa la voglia di darmi una carezza, perché sono triste. Ed io non mi avvicino a lei in quanto sono triste, e chi è triste vuole stare per cazzi suoi. Sono triste. Vorrei soltanto morire, ma mi godo la mia sofferenza. Altrimenti poi che gusto c'è a non essere tristi nella vita? Non do spiegazioni della mia situazione di tristezza, che così la gente pensa poverino, chissà com'è triste. Ma poi penso pure che pensino, però che palle, è sempre triste quello, e la cosa mi butta giù di più. Sono triste. Vorrei viaggiare di più, fare cose sempre nuove, ma non le faccio, perché sono triste. E allora mi metto alla tastiera del portatile comprato dai miei genitori per dirvi che Sono triste, non lo vedo. Anche io credevo nel mio inizio così serio e professionale, ma poi non ce l'ho fatta. Vertigo mi ha proprio tolto la tristezza a colpi di umorismo inverso, devo dire. Se volete conoscere meglio questo fenomeno surrealista, trovate innanzitutto la sua musica su Jamendo, vedi il collegamento nel post, e poi c'è anche un MySpace apposito in cui si dice alla voce informazioni su Vertigo: Vertigo non è un musicista, ruba frammenti di brani altrui, li monta quasi a casaccio e regala il prodotto finale. Collabora da anni con l'amico poeta Angelo Zabaglio e con il dadaista Andrea Coffami. Dei suoi brani Vertigo dice: la mia non è musica, ho troppo rispetto per i veri musicisti, i miei pezzi sono solo suoni elettronici montati uno a fianco all'altro. Alla faccia della modestia. Proseguiamo insieme con un brano sempre sopra le righe, difatti il titolo gioca ancora di surrealismo e inversioni di senso. Si tratta di Hit Me con Insert Toy for Coin. We'll be right back. magari potessi inserire i miei vecchi giocattoli d'infanzia in un grande distributore ed averne indietro monete. Che ve ne pare? Immaginate la scena, una lunga fila di adulti in coda con borse, scatole, sacchi pieni di trenini elettrici, orsacchiotti di peluche, fustini del detersivo pieni di Lego e Meccano, allegri chirurghi, dolce forni Harbert, biciclette con rotelle e tricicli, Masters of the Universe, Action Man, Barbie e Ken, Puffy, figurine Panini, pisolone Mattacchione, Ciccio Bello. We know there are times and places to be quiet, and other times and places when we can make noise if we want to. For example, when we play, we make all the noise we want. Sometimes making a lot of noise is a part of the fun of the game. Direi abbiamo appena ascoltato Retrigger con un remake bello pompato di un classico dello swing, molto simile ai momenti più benevoli di Square Pusher in alcuni tratti, e per il resto magari aspetto i vostri commenti o non so delle vostre considerazioni, ovviamente su radiopazza.blogspot.com. sotto ogni post, ogni pubblicazione di podcast, potete trovare il link che vi manda direttamente alla parte dei commenti, quindi aderite numerosi, venite gente, venite. Oramai mi sento caldo e sprintoso. Il prossimo pezzo si intitola Blue, loro sono i Geigermeister. Thank you. bello farsi la radio da soli, eh? È proprio un bisogno fisiologico. Infatti, quando il mondo reale si impossessa del mio tempo, soffro di una rara forma di orticaria che mi passa solo quando sto qui al microfono. Radio Pazza nasce per questa esigenza, per quel bisogno che accomuna me, Grex, Prisma, Mio, Ro, DJ Cocotte, DJ Brontolo, DJ Gasperino e DJ Kempo. Un bisogno primitivo di condividere in modo efficace le proprie passioni, ma soprattutto il bisogno di sentirsi meglio. Eh sì, fare la radio ti fa sentire meglio, è una gran bella terapia, provatela. Se vuoi fare un tentativo, ecco, che ne so, registrare il tuo podcast, mandaci una demo a radiopazza@gmail.com, magari chissà, scoprirai il tuo talento nascosto. Sembra una pubblicità, vero? Adesso ci ascoltiamo i Poxfield con la loro Not Your Enemy. I'm not your enemy, I'm a refugee of your mind. I find it underneath your soul. You don't know, go, go, high and low like a blow of snow. You don't sing wood or chug a tree. The business game of mice and me. Business game of mice and me. Molto interessante questo pezzo, credevo che i Poxfield fossero un gruppo, invece si tratta di un artista francese che collabora di volta in volta con artisti differenti. Per sapere di più sulla musica in programmazione qui su Back to the Future puoi trovare il collegamento diretto alla pagina di jamendo.com di ogni brano della playlist e da lì in poi navigare a ritroso verso l'artista e la sua homepage, magari, se è stata resa pubblica, appunto. Perché pubblicizziamo tanto jamendo.com, archive.org e altri siti che offrono musica gratuita e libera? Ma che domande fate? Ora segue un pezzo molto romantico e molto volgare. Se avete meno di 18 anni e capite la lingua inglese, prima di ascoltare chiedete il permesso ai vostri genitori. Si tratta di Nylock Rex e Dr. Knox con Shed My Fuck. It's gonna take some time, it's gonna take some time for me to shed my fuck. It's gonna take a lot of time for me to shed my fuck. It's gonna take some time for me to spill my seed. It's gonna take a lot of time to give you what you need, girl. There's gonna be some stroking, there's gonna be some sucking. You know that I ain't joking. There's gonna be some fucking. Both our bodies bucking, my dick is nicely tucked in, going nice and slow. Got nowhere to go. Take some time for me to shed my fur. It's gonna take a spew my seeds. Gonna take a lot of time to give you what you need, girl. So don't rush me. No, don't speed. You don't have to hurry. There's no need to worry. Just get into the groove. Let your body move naturally, nice and smooth. Baby, I love the way you suck my tongue. You got me so excited that I wanna lick your bum. I'm kissing you, making you squeal in 69. What you doing on the other end is feeling fine. Love the way you move your hips, you make me so horny. When you need it all again, baby, just call me. I'll be here for you, always hot and ready. So we can rock the bed, slow, fast, and steady. Now you let me inside and I can feel it glide. This is the nicest ride I could imagine in my mind. You're hot and wet and I love it like that. I take you from the back, so deep, so tight, no slack. I savor every moment, cause this is what I love. Time for you to ride on top, I'll see you up above. It's so hot how you moan and whine. We coming to climax now, both screaming. Am I dreaming? I'm about to be creaming. It's gonna take some time, it's gonna take some time for me to shed my fur. It's gonna take a lot of time for me to shed my fur. It's gonna take some time, it's gonna take some time for me to spew my seeds. It's gonna take a lot of time to give you what you need, girl. There's gonna be some moaning, there's gonna be some groaning. You best turn off the phone and act like there's no one home. It's peaceful and quiet. You can be a freak, girl. I know you wanna try it. It's gonna take some time. It's gonna take some time for me to shed my fur. It's gonna take a lot of time. Che dire, sono senza parole. Leggo e traduco dal blog di Nylock Rex. Ciao, sono in Thailandia, ho visto il tramonto più lungo della mia vita. Abbiamo seguito il sole fin dal Giappone, quindi è tramontato per circa 10 ore. Ero stanco, ma ce l'ho fatta e ho meritato un lungo sonno. Sono anche passato sulle montagne dell'Alaska e della Russia, fichissimo. Scriverò di più quando ne avrò la possibilità. La mia sessione di internet è quasi terminata. Saluti, baci, ciao ciao ciao. Chissà cosa ci è andato a fare in Thailandia il nostro Nylock. Guarda, veramente non ho commenti. Ok, adesso però è il turno dell'abile MEA, ovvero Music Electronic Amateur, detto anche French Lab, alias Florent Longeon dalla Francia, con un brano dal titolo italiano Solamente. We'll be right back. un tuffo nel passato questa solamente, un po' per lo stile e un po' per le sonorità che offre. Devo dire un pezzo molto elaborato e tecnico, magari ottimo per una passeggiata in montagna. Non chiedetemi perché quest'idea, veramente. Veramente, solamente. Il tempo stringe e mi attanaglia, se non mi sbrigo a registrare faccio tardi al lavoro, quindi vi lancio addosso questo intrigante lavoro di Transient dal titolo Third Time Baby. Come sempre, Transient non mi delude mai, forse sarebbe il caso di stilare una classifica degli artisti migliori su Back to the Future. Magari se volete potete darmi una mano con i vostri suggerimenti, ovviamente per posta elettronica a radiopazza@gmail.com oppure commentando il post direttamente sul blog di Radio Pazza. Per quanto riguarda Transient, potete risalire alla sua homepage da Jamendo e da lì al suo MySpace. Sempre sulla homepage, oltre ai bellissimi artworks e la discografia completa, potete acquistare il DVD contenente 400 e più brani e inoltre per noi amanti del gratis trovate anche in free download un VST molto divertente per sintetizzare musica con il vostro computer. Si tratta di Silly Billy che emula un sintetizzatore. Poi se non sapete cos'è un VST magari lasciate stare e provate con programmi più semplici. Ora tocca a Judas Priestley, che non c'entra niente con Elvis, e la track Deuteranopia 1. Thank you. Pezzo molto pacifico, direi, stimolatore di buoni sentimenti. Chissà cos'è la deuteranopia o deuteranopia, non so, cercherò su Wikipedia, vabbè. Siamo arrivati al termine, signore e signori, questo è il capolinea di Back to the Future numero 7. La stazione ultima è Dalius con la sua gradevolissima e pomposa Mexico de Noche. La Back Travels vi ringrazia per averci scelto, ricordiamo ai nostri passeggeri di non dimenticare i bagagli a bordo e di prepararsi allo sbarco. Qui è il capitano Back che vi parla e vi dà un caldo e sinusoidale abbraccio.